da quando non ci sei che ho in testa un'idea di scrivere una musica per te. Io la vorrei che sia una canzone come cantavi con gli amici in allegria. Vorrei cantare la magia di una confidenza o l'emozione di un amore tutto da raccontare. Vorrei saper se è vero o no che vivi meglio tu. Saranno tutte storie o no che non si è soli mai e che perciò dove adesso sei non puoi mai avere paura. Che idea senza costrutto di fare una canzone allegra con un sasso dentro il cuore. Per mano abbiamo fatto una strada tanto lunga, mentendoci l'un l'altro per amore. Mi sembra un fatto naturale di fare confusione e di mischiare tutto insieme, il riso ed il dolore. Per noi è sempre un po' così, sarà una malattia, un'arte, una filosofia che poi ci consolerà. Se quando sete avrai, da sola non berrai alle fontane del cielo. Che strano risultato di un'emozione forte, una canzone che non canterò. I sassi che ho nel cuore, il fiume dentro agli occhi, e così la mia voce muore e muore. I sassi che ho nel cuore, il fiume dentro agli occhi, e così la mia voce muore.